stata una ventata di novità con i suoi thriller, con i suoi libri d'azione, e quindi una pista gialla è possibile anche in un territorio pulito e ordinato come il nostro. E lo ringrazio perché ci ha fatto anche scoprire che effettivamente c'è una letteratura poliziesca ambientata anche in questa nostra regione. Sulle sedie troverete anche una lista di altri libri. Qui c'è il romanzo che è stato presentato precedentemente qui in biblioteca, e quindi questa è una serata un po' diversa rispetto anche alle nostre tradizionali sulla storia locale. E questa novità comunque si trascinerà anche prossimamente. La prossima settimana invece punteremo su altri orizzonti ancora. Avete una cartolina sempre sulla sedia con l'appuntamento di lunedì prossimo che è dedicato alle scienze. Ci sarà con noi Maria Letizia Bertotti, che è una professoressa della LUB. Concluderemo la settimana al 15, che è un venerdì, con professor Dobrilla e il professor Silvano Fuso, che ci parleranno della falsa scienza. E mercoledì mattina, 13 novembre, faremo, ne approfitto sempre, dovete scusare, ma certo, faccio certo. Come il parroco che alla fine della messa dice tutti gli appuntamenti. Allora, il mercoledì 13 mattina noi abbiamo aderito a un'idea anche di azione civile con l'associazione Penelope, che è un'associazione che a livello nazionale si occupa delle persone scomparse. Siccome è stato fatto un atto di convegno su queste vite sospese e anche la legislazione in questo settore, che è stata finalmente messa in piedi, probabilmente anche con l'aiuto e l'intervento di trasmissioni televisive di grande impatto, e volevamo così anche noi far conoscere questo tipo di strumento, alcuni meccanismi che purtroppo si scatenano in occasioni difficili come la scomparsa di una persona. E la mattina del 13 verrà presentato in maniera così molto ufficiale. Poi ci saranno invece delle occasioni diverse in orario serale, come quello di questa sera, per conoscere meglio, insomma, le dinamiche e come è nato questo libro e questo convegno. Ma dalle cose, diciamo, di servizio pubblico passiamo di nuovo a qualcosa di più divertente e intrigante, come il romanzo che ci propone questa sera, appunto Il richiamo del cedro. Graziano Bortolotti è una persona che è impegnatissima non solo per quanto riguarda il servizio che svolge, ma anche sportivamente parlando, vero? Ormai ex appartiene alla gioventù, però ecco. E anche la volta scorsa è riuscito ad essere molto accattivante con il suo romanzo, che è stato letto tantissimo anche dal nostro pubblico, e quindi lo ringrazio di essere tornato in questa nostra biblioteca. Sulle sedie trovate come sempre un modulo di iscrizione, è tutto gratuito e a noi fa sempre piacere avere nuovi utenti e nuovi amici. Vi ringrazio e grazie a voi. Grazie. Ti presento. Allora, mi scuso per la voce perché è un periodo qui che, con questo clima umido, caldo, gli acciacchi si fanno subito vivi. E spero di riuscire a farmi comprendere da tutti. Ecco, io presento Graziano Bortolotti, che conosco ormai da molti anni. E lui è ispettore capo della Polizia di Stato, e lavora a Moena, alla Scuola Alpina della Polizia, ed ha varie passioni nella vita, e tra queste è appunto quello di scrivere libri gialli. Ha iniziato nel 2001 con il thriller La guerra non è mai finita, e poi nel 2009 ha fatto Pista di sangue, e appunto ultimamente propone Il richiamo del cedro. Diciamo che non è semplice per una persona, diciamo, che fa altre attività, mettersi lì in orario dopo lavoro e cominciare a scrivere. Però Graziano ha trovato proprio una sua strada, una sua passione, e lo fa con un grosso impegno, e in effetti già questi tre testi che lui ha pubblicato si nota una grossa crescita, una grossa perfezionamento in questa arte dello scrivere, che non è semplice. Penso che tutti noi abbiamo provato solamente a scrivere una lettera, che a volte stiamo lì con la penna in mano a pensare e ripensare. Pensate un po' a scrivere un libro e architettare poi una vicenda che nasce poi dalla fantasia in pratica. Ecco, io inizierei subito con qualche domanda. Ovviamente i presenti sono liberi in ogni momento di intervenire, facilitando quindi il lavoro, il mio lavoro, risparmiando quindi la mia voce, e possono tranquillamente intervenire. Qui ci sentiamo in famiglia, quindi è chiaro che diciamo si interviene senza tanti problemi. Allora, intanto iniziamo da dove è nata l'idea di questo libro. Allora, buonasera a tutti da parte mia e grazie davvero di essere qua. Saluto anche qualche collega che è in sala, che gentilmente appunto è presente, e mi fa molto molto piacere. E grazie a tutti voi, ancora scusate del ritardo. Dunque, l'idea nasce dalla voglia di raccontare una missione che una squadra deve fare. Quindi la voglia di scrivere questo libro mi è nato, lo stimolo per realizzarlo al meglio mi è nata proprio da questo stimolo, che riguarda proprio far lavorare insieme una squadra. Di solito nei libri si è così un po' tentati di utilizzare dei personaggi singoli, no? Magari mettendo anche in risalto le loro capacità, le loro caratteristiche, i loro pregi, i loro difetti. E questa volta invece è nata in me questa voglia di far lavorare una squadra insieme, cercando di sfruttare le potenzialità che una squadra può avere e mettendola in gioco appunto con una missione, che è una missione chiaramente delicatissima, perché si deve diciamo sviluppare e deve essere messa in atto non nella legalità, quindi all'oscuro della legalità, dietro la legalità. La legalità cosa vuol dire? Che se c'è un cattivo, il cattivo deve essere preso, deve essere processato e poi deve andare in carcere, insomma, voglio dire, questo è un po' l'iter normale, no? del cattivo o dei cattivi. Ecco, in questa storia invece no, in questa storia ho voluto far andare le cose in modo diverso, raccontarle in un modo diverso, e appunto gliele faccio fare una squadra che deve appunto agire nella illegalità. Pertanto l'idea nasce proprio da questo stimolo. Per un uomo dell'ordine, fare pensare a una squadra che lavora diciamo fuori dalle regole, direi che è piuttosto forte. E da dove nasce allora questa? Perché bella l'idea della squadra, cioè di non fissarsi su un protagonista tipo il solito Montalbano, ma invece di focalizzare una squadra. Ma perché una squadra segreta che opera nell'illegalità? Dunque, ho preso spunto da un fatto realmente accaduto, che credo che molti di noi, molti di voi ricorderanno, e risale al 1972. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, come voi sapete, la squadra israeliana è stata presa di mira, è stata aggredita, e quindi un numero di diversi atleti sono poi morti a seguito poi di questo attentato e poi anche di un'operazione poi fatta dalla polizia tedesca. Ecco, appena dopo questo fatto cruento, lo Stato di Israele ha pensato di costituire una squadra per vendicare questo fatto. E cosa ha fatto? Ha preso praticamente, naturalmente, degli agenti, dei professionisti, e li ha messi a capo di una persona che era un agente del servizio segreto israeliano, quindi del Mossad. È singolare come ha strutturato questa operazione. Praticamente ha preso questo agente, gli ha detto, tu gli ha spiegato cosa doveva fare, doveva eliminare una lista di persone ritenuti colpevoli di questo attentato, e gli ha fatto firmare delle carte in cui lui doveva rinunciare a tutto, non era più un agente, doveva rinunciare al suo status di agente, doveva rinunciare a tutto, doveva cambiare vita, doveva andare via da Israele, doveva andare in Europa. Aveva fondi che non finivano mai, lui poteva andare in banca e ritirare tutti i soldi che voleva per pagare tutti i suoi informatori e tutte le operazioni che costavano tantissimo, non aveva limite alle spese. Ha dovuto però rinunciare al suo dentista, al suo medico, a vedere sua figlia che nasceva, perché sua moglie stava aspettando un figlio. Ecco, sono tutti fatti veri questi che sono accaduti. Leggendoli mi hanno impressionato tantissimo. Ecco che poi l'idea, anche da parte mia, di costituire una squadra che avesse queste caratteristiche. Infatti devono agire nel modo più segreto, praticamente loro non esistono, quindi sono dei professionisti che si devono muovere in autonomia completa, devono utilizzare la loro rete di informatori, e in questa epoca di tecnologia gli ho fatto fare un passo indietro, cioè utilizzare solo il contatto personale, fisico, non tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione. È singolare quello che mi è accaduto sabato. Sabato sono passato davanti a una libreria e naturalmente ho sbirciato come sempre faccio, e alla ricerca di qualche libro interessante, e ho notato che uno dei miei scrittori preferiti di gialli, di thriller, che è Forsyth, che voi sicuramente conoscete, è appena uscito con il libro La Lista Nera. Praticamente è la storia di un ex marine che deve praticamente eliminare un pericolosissimo terrorista che però lavora sul web, quindi con le tecnologie. E allora è stato anche così da parte mia singolare il fatto di immedesimarmi in quello che anche lui, dall'alto della sua situazione molto famosa, molto chiaramente qualificante, ha messo in atto questo, così più o meno la stessa idea. Quindi ecco, mi sono basato su fatti veri, perché questi in me creano una grande volontà e anche un grande stimolo, su fatti veri, per poi lavorarci sopra e ricamarci un po' quello che poi ritengo più giusto, insomma. La fantasia alle volte anticipa la realtà, infatti lui ha fatto lavorare questa squadra segreta in maniera un po' più tradizionale, senza puntare troppo sulla tecnologia. Infatti la massima tecnologia sono i cellulari in cui cambiano le schede, e da questo punto di vista ha anticipato una situazione attuale in cui si è scoperto che tutti spiavano tutti e che ormai le nostre comunicazioni sono sulla piazza di tutti, nel senso che le telefonate, le email, tutte le comunicazioni che ci sono tra di noi possono essere spiate e controllate. Quindi il fatto che la tua squadra lavori ancora un po' alla vecchia, da questo punto di vista, è un segno un po' anche dei tempi. Ecco, il titolo, scusi, cos'è presente? Ecco il titolo. Perché il titolo? Il titolo è appunto il richiamo del cedro, e rappresenta due cose. Beh, il cedro, come noi sappiamo, è questo albero che è presente nel Libano in particolare, che ha questo profumo, questa profumazione molto, molto particolare, e quindi c'entra in una delle ambientazioni che ho dato al libro, quindi c'è questo passaggio in Libano. Il richiamo invece per me è una piccola chiave che serve così a trasportare il lettore durante questa narrazione, questa storia, e questo richiamo si identifica in un modo di zufolare che io non so farvelo, però mio cugino sì, perché mi ha dato l'idea. Mio cugino, quando è sopra pensiero, è un albergatore, e quando attraversa i lunghi corridoi del suo albergo, spesso, non lo so se lo fa quando è allegro oppure quando è pensieroso, questo dovrei ancora capirlo, però mi ha dato questa idea, perché ha un modo di zufolare molto molto particolare, gliel'ho visto fare solo a lui. E allora questo mi è servito per collegare i vari personaggi che fanno parte di questa lista da eliminare, praticamente, da cercare e da eliminare. Quindi ecco, il richiamo del cedro è un misto tra l'ambientazione e un modo di atteggiarsi, che però non è di un solo personaggio, ma è di più personaggi. È solo un piccolo passaggio. È un piccolo passaggio, però è fondamentale. È fondamentale verso la fine della storia, perché spiegherà perché c'è questo richiamo anche adesso, perché è nato molto tempo fa. Se non può dire di più, perché altrimenti svela alcuni elementi importanti del libro. Ecco, tu descrivi la squadra non solo dal punto di vista così operativo e tecnico, ma affronti anche, diciamo, la psicologia di personaggi che hanno questo ruolo che non è semplice, cioè devono lavorare in completa autonomia, fuori dalle regole, e devono far fuori dalla gente. Sì, naturalmente il personaggio e i personaggi di un libro, di tutti i libri, devono avere delle caratteristiche le più svariate, un po' come siamo fatti noi nella vita di tutti i giorni, quindi ci deve essere l'intelligenza, ci deve essere l'equilibrio, la forza, la determinazione, ma naturalmente anche la debolezza, oppure quello che abbiamo dietro la nostra storia, i problemi che abbiamo avuto. E quindi naturalmente ho cercato di mettere in risalto un po' tutte le caratteristiche che ognuno di loro hanno. Naturalmente qua si parla di professionisti, perciò un professionista di qualsiasi campo è una persona che è ben preparata, che è ben abituata, e pertanto in questo ambito stiamo parlando di persone che devono mettere in atto un piano per uccidere, per eliminare fisicamente una persona, quindi sono persone sicuramente fredde, eccetera. Ciò non toglie però che, come è avvenuto in quel fatto vero che vi ho raccontato prima agli agenti del Mossad a seguito di Monaco 72, come è avvenuto per loro, anche ai protagonisti di questa squadra, prima o poi si troveranno a fare i conti con la loro coscienza. E questo qualsiasi uomo prima o poi arriva a farlo. Quindi anche qua ho cercato di umanizzare il più possibile i protagonisti, perché non era mia intenzione creare dei Terminator, non era quello l'obiettivo, bensì quello di, attraverso l'umanità di uno di loro, cercare di far dare loro il meglio. Alla fine però, quando soprattutto si fanno operazioni di questo genere molto difficili, molto, molto proprio al limite della sopportazione, emerge proprio il fatto che non ci si può mai fidare, c'è sempre qualcuno che tradisce, c'è sempre qualcuno che fa il doppio gioco, c'è qualcuno che ti aiuta, però c'è qualcuno che ti vuole eliminare, pertanto sono messi a dura prova sicuramente. Ecco, Graziano Bortolotti ambienta sempre, affronta, diciamo, nei suoi libri tematiche internazionali di rilevanza per tutti noi. In questo libro in particolare lui affronta il problema del nucleare. Infatti nella copertina è presente il classico simbolo della radioattività. Allora gli chiederei perché la scelta di questa tematica, e se è veramente attuale per noi ancora un pericolo, diciamo, nucleare. Ecco, l'argomento nucleare è stato, diciamo, è uno degli argomenti che mi hanno appunto spinto proprio a raccontare questa storia che attraverso questa squadra parte. E come noi sappiamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono creati questi due blocchi, no? Blocco americano e blocco russo, i quali entrambi, insomma, si sono procurati e armati dal punto di vista nucleare. E questo però e naturalmente questo ha portato poi agli anni della Guerra Fredda, che appunto noi conosciamo, abbiamo conosciuto gli anni 80. Però di fatto, per fortuna, Duna si sono solo mostrati i muscoli, ecco, non hanno poi azionato il famoso bottone che ha scatenato. E, però per arrivare ai tempi moderni, ed è stato questo anche un input molto importante, anzi sicuramente fondamentale per aver avuto la voglia di scrivere questa storia, è che, e lo vediamo quasi tutti i giorni sui giornali, l'Iran si sta armando nuclearmente. Quindi il fatto che ha parecchio petrolio, parecchie disposizioni e disponibilità di soldi per potersi muovere, per poter acquistare uranio impoverito che poi serve eventualmente per l'armamento, lo pone come un pericolo attuale. Se poi allarghiamo il discorso e lo portiamo verso la Corea del Nord, la Corea del Nord è un altro pericolo perché dispone già di armamenti nucleari. Ho qua un articolo, uno dei tanti articoli apparsi in questi anni, e questo è del Corriere della Sera, e appunto dice: contro la rovescia per i missili, duro monito USA alla Corea del Nord. E la Corea risponde: se Tokyo continuerà ad essere ostile, potrebbe essere consumata dalle fiamme nucleari. Quindi in effetti i pericoli ci sono. Si spera sempre che ci si mostri solo i muscoli e ci si guardi storto e che finisca lì. È stato effettuato uno studio in America che se l'Iran attaccasse lo Stato di Israele, che come voi sapete è una delle fonti anche di odio, no? Appunto per quanto riguarda la zona medio orientale, ebbene se si scatenasse una cosa di questo genere, prevederebbero, perché utilizziamo chiaramente una forma verbale molto ipotetica, che se succedesse un attacco nucleare tra il 2010 e il 2015 tra questi due stati, scatenerebbero intanto Israele disponendo di armamento nucleare e di un esercito altamente professionale e organizzato. Andrebbe a finire così, questo è lo studio, che in Iran ci sarebbero quasi o se non oltre 20 milioni di morti, a fronte dell'Israele che ci sarebbero circa 500-800 mila morti in Israele. Israele non scomparirebbe perché è organizzato militarmente molto bene, però creerebbe una cosa chiaramente immane, no? Pertanto è per questo anche che ho voluto citare all'inizio del libro, come spesso succede, il titolo, il suo valore, come hanno dei valori delle frasi che possono stimolare, no, le cose. E io ho voluto citare questo Raymond Panikkar, che è un premio Nobel della letteratura di 2 anni fa, mi pare, il quale dice che nessuno possiede la verità, il dialogo è dunque necessità di ciascuno, individuo, cultura, religione che sia. Perciò bisogna sempre sperare che ci sia il dialogo, e il dialogo deve esserci e ci sarà sicuramente da parte delle diplomazie. E poi io qui, tra virgolette, ho diciamo scherzato, ma forse non è la parola giusta, qua mi sono un po' divertito a dare adito un po' alla mia fantasia, ma in realtà operazioni come queste, cioè segrete, per distruggere il lavoro di qualcuno che vorrebbe appunto porlo in essere e farlo, esistono davvero. Perciò alle volte siamo al bar, leggiamo i giornali di qualche operazione, di qualche persona che è stata arrestata perché in maniera segreta ha fatto certe cose o ha ucciso qualcuno, ma in realtà nell'equilibrio del mondo, lo vediamo un po' nei film, effettivamente ci sono delle azioni segrete che servono a bloccare e a mantenere così questo equilibrio di stabilità nel mondo, insomma. Bene, è una tematica, sì, abbastanza inquietante. Io ti darei invece un altro fatto, cioè un altro elemento che è caratteristico dei libri di Bortolotti, è quello di fare riferimento a eventi passati, in particolare della Seconda Guerra Mondiale. e già nei libri precedenti avevi adocchiato questa pista, e anche su questo libro abbiamo riferimento a documenti segreti appartenuti appunto provenienti appunto dal conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Allora, perché questa attenzione alla storia passata? Ma per vari motivi, sicuramente siamo adesso quello che è accaduto tanto tempo fa, no? In varie epoche, insomma. Poi vabbè, la Seconda Guerra Mondiale in effetti è un evento tremendo accaduto poco tempo fa, se pensiamo insomma ai pochi anni che sono trascorsi. E poi anche qui io il mio modo di fare ricerca, se decido insomma di raccontare, di scrivere un libro, mi viene dato proprio dal fatto di assumere delle notizie vere, dei fatti che sono accaduti. E anche in questo caso mi è servito molto un articolo apparso anche sui nostri quotidiani, legato a una parte della società attuale, soprattutto si riferiva alla Norvegia, ma ci sono comunque anche in Germania, ma anche in altri stati, praticamente di quelle persone che sono nate dalle sperimentazioni legate alla razza ariana voluta da Hitler nel suo periodo di dittatura. Ed è sconcertante pensare che persone che sono appunto nate da queste sperimentazioni si devono nascondere, no? Devono vivere una vita, diciamo, alcuni anche segreta, ma quantomeno insomma nascosta, perché sono additati come persone che sono ai margini della società. Ecco che allora emerge la crudeltà di quello che può essere la guerra, non solo perché uno uccide l'altro, ma se poi si spinge oltre, come è successo con il caso del Terzo Reich, laddove ci sono anche queste sperimentazioni, questi modi di vedere poi il futuro, ecco che allora ci ritroviamo ancora ai tempi nostri certe cose, no? Quindi anche questo è un argomento che si è ben, per quanto mi riguarda, insomma, adattato a incastrarsi insomma in questa rete di anche di indagini che poi la squadra è costretta a fare. Perciò mi ha dato questa voglia anche di raccontare questo tipo di situazione. Sì, è notizia di ieri, appunto, il ritrovamento di una 1500 quadri che erano spariti in Europa e sono stati ritrovati appunto a Berlino. Quindi in effetti lo scrittore inventa, ma la realtà spesso conferma queste invenzioni della fantasia. Ecco, tu dici appunto che quello che è venuto durante la Seconda Guerra Mondiale, il fenomeno del nazismo, ci ha influenzato e ci può influenzare ancora. Tu parlavi di queste persone che sono nate da varie sperimentazioni di razza ariana, che quindi ora devono appunto condurre una vita in qualche modo anche un po' nascosta. Ci sono altri elementi del passato che possono in qualche modo influenzare la nostra vita, o ne fai riferimento nel libro? Ma sai, più che altro, sempre rimanendo legati un po' al discorso del nazismo, o comunque dell'estrema destra, senza voler chiaramente trasformare questo incontro in un dibattito politico, ma utilizzando l'argomento solo rimanendo prettamente nella storia del racconto, è chiaro che se le democrazie attuali, che sono piuttosto deboli, piuttosto fragili, piuttosto instabili, continuano a essere e continueranno ad avere questa caratteristica, è molto probabile che ci siano queste forze nuove che entrano, o comunque forze vecchie, no? Che hanno più spazi per poter entrare, e quindi può costituire un pericolo. Quindi ecco perché sia in America, e qui chiaramente nel racconto viene utilizzato molto questo passaggio, disagio, sia in America che sia in Europa, questi gruppi di estrema destra esistono, si muovono, hanno capacità di finanziarsi, di intervenire, no? In Grecia anche adesso, no? Avete visto Albadorada è un'entità filonazista e pertanto sono dei pericoli reali che anche lì bisogna cercare, insomma, proprio io mi riferisco al fatto proprio pensando a una guerra, no? Pensando a evitare una guerra, pensando a quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, insomma è una cosa che al di là del discorso politico, però sono cose assolutamente da evitare, assolutamente da scongiurare, e però la fragilità attuale della democrazia gli dà ancora più forza, sicuramente, e questo è anche preoccupante. Posso fare una domanda? Non c'entra con le questioni sociopolitiche o storiche. Lei scrive dei thriller, e visto il lavoro che fa, è anche deputato, diciamo, a farlo, no? Perché uno scrive volentieri o sa scrivere bene quello che vive, insomma, il suo vissuto. Come si spiega lei questo florileggio di thriller? Cioè, tu vedi 100 romanzi, 80 sono dei thrillers, no? Se non anche di più, ma non soltanto in Italia, anche all'estero. Sì, sì. C'è questa moda dei thriller. Non so se è una moda, diciamo che il thriller, allora, per certi versi, se si parla di libro, si parla di letteratura. Allora, la letteratura, se è una letteratura che viene dalla cultura, che viene da grandi studi, da persone che hanno studiato parecchio, eccetera, è una cultura appunto di un certo livello. Tendenzialmente il thriller, il giallo, è considerato un libro di serie B, perché comunque può trattare degli argomenti importanti, degli argomenti anche diciamo basati sulla ricerca, basati su tante cose. Però cos'è che ha di bello il thriller? Ecco perché ce ne sono tanti. È un libro di intrattenimento. E è vero che però l'intrattenimento è molto soggettivo, nel senso che ogni persona decide che tipo di libro legge. Infatti è bello vedere sulle spiagge, io curioso sempre quando una persona ha un libro in mano, perché è curioso che titolo, poi non bisogna mai chiedere perché legge o perché non legge, però mi incuriosisce capire che tipo di libro, perché è molto soggettivo, e allora uno si può rilassare leggendo appunto di storia, delle guerre, eccetera, eccetera, un altro invece legge thriller. Però mediamente i thriller hanno questa caratteristica, cioè ti impegnano, però nello stesso tempo ti fanno svagare, no? Ti rilassano. Poi naturalmente anche nel thriller dipende la tipologia, perché ci sono anche le parti legate, non so, un po' come gli horror, no? Nei film c'è il lettore che ama l'horror e quindi cose molto forti, c'è invece c'è il lettore che preferisce un thriller che che ti intrattiene, che non ti impegna, che ti fa solo compagnia. Ecco, perciò secondo me la risposta può essere quella. Sì, no? Ma mi è parso di capire che lei parla di un thriller di agenti sotto copertura, di clandestinità, eccetera. Cioè uno deve anche saperne, insomma. Sì, diciamo che ti devi documentare, perciò la documentazione è fondamentale. Lei tenga presente che anche, ma lo si sapeva già, ma anche in questo ultimo libro che ho comprato l'altro ieri, che vi dicevo, scrittori professionisti come possono essere Ken Follett, insomma tutte le persone che vivono di scrittura, loro si possono permettere addirittura, so, vogliamo parlare di Dan Brown, no? Che è il più famoso, perché Dan Brown paga dei ricercatori affinché vadano a Venezia, vadano a Firenze, vadano a Roma, vadano nelle biblioteche vaticane a studiare bene le cose. Poi gli faranno un dossier, lui no? E quindi sotto questo aspetto è un lavoro valido. Naturalmente non possiamo però paragonare un thriller con i classici della letteratura, eccetera, perché appunto è una letteratura diversa. Però sicuramente il lettore la sera soprattutto ama così avere la compagnia di qualcosa che non lo impegni troppo. A me personalmente, come lettore, ma poi anche come addetto ai lavori, io amo una scrittura semplice, cioè non so voi, ma se io devo leggere un qualcosa che non capisco e che devo rileggerlo e poi devo rileggerlo ancora, a me non piace. È sempre piaciuto leggere un qualcosa anche di difficile, però scritto in maniera semplice. Oppure mi sono sempre piaciute quelle persone che ti spiegano a voce delle cose difficili, però in un modo molto semplice. Quindi anche la scrittura. Infatti Ken Follett, in uno delle sue regole legate al successo, insomma, di un libro, dice: la scrittura deve essere basic, cioè di base, semplice. E allora al lettore, il lettore è contento, insomma, ecco. Sì, aggiungerei sul fatto che ci siano molti thriller in circolazione, forse è dovuto anche a un fatto psicologico, cioè noi portiamo dentro delle paure, e il fatto di leggere, di interessarsi, può essere un modo per esorcizzare questa paura, come non so, i film horror, può essere un modo per esorcizzare le nostre paure. E sarebbe interessante in effetti capire di più, in effetti diciamo la corrente gialla è piuttosto presente sul mercato dei libri. Quello che tu dici, Gilberto, mi serve, scusi, proprio per ricordare una cosa. Tempo fa leggevo un articolo proprio in merito a questo e evidenziava questa cosa. Fondamentalmente, ma adesso la dico in maniera molto banale, insomma, alla gente piace quando si uccide, quando dai delle lezioni a qualcuno, ecco, nel nostro interno, nel nostro profondo c'è questa piccola soddisfazione, no? Allora può anche essere anche per questo che il genere va. La signora voleva. Certi scrittori hanno creato anche questi personaggi, l'ultimo, il Montalbano, ma penso a Rex Stout, al vero Wolf, a Maigret, belli. Poi era anche una bella letteratura, anche Maigret. Certo. Ma Rex Stout. Sì, e poi i personaggi che lei... seduto lì, che... I personaggi che lei cita sono vincenti anche perché sono molto umani. Sì. Hanno i loro difetti, sono golosi, sì. Magari devono sottostare alla moglie, però invece sono capaci di stanare il furfante più incallito e più intelligente, però hanno umanità, no? Hanno, sì, sì. Questo è il... Sì, direi che la letteratura gialla non è una letteratura di secondo ordine. No. Perché in effetti abbiamo una serie di autori che sono di una grandezza enorme, e penso che tutti noi abbiamo letto in molte occasioni libri gialli e volentieri. Cerchiamo di, se ci sono domande, che vengano pure. Io vado verso la chiusura, insomma, chiedendo a Bortolotti, che nei suoi libri lui non chiude mai la porta, cioè non è mai definitivo, e quindi lascia sempre qualcosa di aperto, e quindi gli chiediamo come sarà la prossima avventura, o comunque che idee ha per continuare questa serie di libri. Beh, Richiamo del Cedro ha un finale aperto, quindi dà spazio a una prosecuzione. E ad esempio la recente morte di Priebke mi avrebbe già dato qualche spunto, quindi diciamo che ci potrebbe essere effettivamente una continuazione. E sto ultimando un altro libro legato al mercato clandestino degli organi, che è un argomento, anche prima Valeria che saluto e ringrazio molto. Prenotiamo allora il prossimo. Sì, volentieri. Grazie Valeria di tutto, dell'accoglienza, ti ringrazio molto. E appunto sto concludendo questo racconto. Mi piacerebbe pensare a una trilogia, un domani, insomma, pensare potrebbe essere il prossimo libro, quello legato al trapianto degli organi. Ci sono questi due protagonisti, questi due giornalisti che mi piacciono e potrebbero dare vita a una trilogia, e allora sono un po' di questo ordine di idee, insomma, di andare avanti in questo modo. Vediamo. Infaticabile, perché io non so se uno, quando ha finito la giornata di lavoro, si mette lì a sbatacchiare sui tasti del computer, tenendo conto che le idee alle volte ci sono, alle volte faticano ad arrivare. E quindi ogni scrittore penso che incontri dei momenti di aridità, cioè proprio dei momenti in cui uno dice: ma che ci sto a fare qui davanti a questo strumento? Ecco, io chiederei appunto ancora a Portolotti che cosa lo spinge a scrivere e come reagisce in situazioni quando, insomma, trova difficoltà a tirar fuori le parole, perché spesso le idee ci sono, però poi tradurre il pensiero in parole è un processo che non è poi molto semplice. Ma scrivere fa bene proprio all'anima, fa bene alla mente, scrivere fa bene, insomma. E logicamente poi dopo diventa così un certo impegno, perché ci vuole il suo tempo. Però come tutte le cose, insomma, poi bisogna accettare il momento che hai. Poi succede così: quando hai tante idee hai poco tempo, e quando hai tanto tempo hai poche idee. Allora cerco un po' di mixare le due cose. Alle volte sono combattuto se andare a sciare o se scrivere. Allora dipende se mio zio c'è in zona, allora vado a fare compagnia a sciare, oppure due passi ti vengono un po' le idee. Ad esempio camminare è una cosa che mi aiuta a pensare. Infatti quando non so trovare una soluzione, vado a farmi una camminata, una passeggiata, ti ossigeni il cervello, stai un po' da solo con te stesso, ti aiuta. E poi naturalmente bisogna leggere tanto. Se uno scrittore innanzitutto ti mette a scrivere quando cominci a osservare il mondo in un modo tutto ti interessa, tutto ti sembra curioso, allora quello è la cosa più importante. E dopodiché bisogna leggere molto. Infatti frequentando la scuola qui a Bolzano di scrittura presso l'UPAD ho avuto modo di appunto entrare in contatto con dei professionisti, e quando ho visto che loro viaggiano e arrivano qualche volta in ritardo, come è successo a me, mi scuso ancora, e si fermano, scaricano il loro zainetto, vedi che nel loro zainetto hanno 2, 3, 4 libri, e questo non vuol dire copiare, vuol dire nutrirsi. Quindi bisogna leggere molto. Poi, come tutte le cose, ogni tanto bisogna, no, staccare, chiudere baracca e burattini e aspettare. E poi le cose diventano. Ecco, lui ha spiegato perché la presentazione dei libri si fa in biblioteca, perché oltre a presentare un nuovo contributo è un invito alle persone a leggere, e purtroppo noi italiani leggiamo abbastanza poco, anzi dicono che la maggior parte degli anni legge poco o nulla, e c'è una piccola minoranza che invece sono lettori accaniti, che quindi leggono in maniera molto spinta. E è vero che noi siamo presi in un mondo di immagini, di televisione, di ipertestualità, per cui leggere diventa sempre più difficile. Però, come dice appunto Bortolotti, la lettura è un modo per alimentarsi, alimenta la fantasia, alimenta la conoscenza e ci permette di vivere contemporaneamente, diciamo, realtà e vite diverse. Se ci sono domande, io inviterei ancora, ecco. Una sola. Una sola. Io premetto che ho già letto il libro. Graziano, volevo chiederti una cosa. L'ambientazione richiama alcuni posti del nostro territorio. Qual è la motivazione che hai legato la storia anche a questo? Ma innanzitutto l'Alto Adige è così bello, è così particolare. Nella fattispecie la storia si sviluppa un po' qui a Bolzano in maniera abbastanza veloce, perché Bolzano, come tutte le città, ti può essere utile. Però la mia citazione riguardante l'Alto Adige si riferisce al Renon, all'altipiano di Renon. Io non so voi, ma io quando vado all'altipiano di Renon, non lo so, mi si ferma un po' tutto, insomma, no? Allora pensi alle ferite che hai dentro e le lasci andare nel territorio dove sei e cominci a sentirti meglio. Ecco che allora uno dei protagonisti il capo di questa squadra ha un vissuto molto forte e per curarsi è venuto a vivere in un posto bello come Renon. Ecco, l'ambientazione ti può servire non solo per far girare, appunto, movimentare le varie azioni, ma proprio anche per entrare nel personaggio e fare in modo che anche un posto che può essere distante dal mondo, come ad esempio nel caso del nostro qui a Di Piano di Renon, può significare, insomma, una bella cosa, quindi fondamentalmente questo. E poi la cosa interessante anche di un libro è proprio questa, cioè tu puoi scrivere un libro stando in una stanza e scrivere 200 pagine come girare, questo è proprio soggettivo, no? Quindi è una cosa che ognuno si gioca, però a me piace in questo caso, se vedo un posto particolare, è molto molto utile per l'ambientazione, ma anche per l'anima del personaggio. Se non è un caso, vuol dire che qui a Bolzano e negli intorni si sono rifugiati anche, facendo riferimento a quello che tu dicevi di prima, che così anche vari gerarchi nazisti, nel senso che comunque è quasi similare il fatto che anche un gerarca nazista, quindi abituato alla violenza così, sia similare a un personaggio di questo, nel senso che anche uno di questi può avere agito con un diverso intento, ma la finalità, insomma, della violenza è la stessa, insomma. Cioè violenza è violenza, no? Cioè, forse c'è poca differenza, no? Quindi invece a fare questo collegamento. Poi il territorio altoatesino poi è interessante anche dal punto di vista storico, per quanto riguarda anche la movimentazione di personaggi che si sono nascosti e poi andati via, quindi si presta anche parecchio. Però mediamente è citato poco, perché invece noi, conoscendolo, possiamo giustamente sfruttarlo. Quindi sarebbe bello potesse anche essere conosciuto attraverso, in questo caso, i libri, ma anche in giro, anche un po', tra virgolette, nel mondo, insomma, ecco, perché sennò alla fine anche nei libri, se noi vediamo gira che rigira, sono sempre le stesse città, sono sempre le stesse zone, quindi è anche bello poter entrare, no, nei territori certe volte, quindi anche per questo. Sì, è sempre una bella, così, una bella sorpresa leggere un libro che parla di una realtà geografica che tu hai già vissuto o su cui vivi, insomma, per cui in un altro libro, per esempio, addirittura era citata la Val di Fassa, per cui, insomma, uno che legge e abita in Val di Fassa dice: ah, però guarda, qui troviamo la Val di Fassa. E quindi in effetti è un modo anche per rendere più vicino al lettore il testo, mentre normalmente si sono le grandi città, i grandi snodi che sono i punti di ambientazione dei romanzi gialli, insomma. È anche vero che se noi pensiamo agli scrittori, appunto, professionisti, anche lì ci sono delle regole quando tu scrivi, quando tu racconti, e come tutte le regole hanno i loro principi. Ad esempio, se tu parli dell'Asia, tu in Asia ci dovresti essere stato Infatti quando ti correggono le bozze, quando tu vai, insomma, pubblichi, poi ti chiedono ma tu qui sei stato, no, eccetera eccetera. Però non tutti sono Hemingway che possono permettersi di cambiare, no? Quindi è anche una necessità quella di utilizzare territori che tu conosci. Poi è anche vero che adesso la tecnologia ti permette di conoscere posti, per esempio, non so, qui si parla di Guatemala, anzi si parla di Antigua, scusate, di Antigua, che è un piccolo stato del Sud America, con la capitale Guatemala. E, però chiaro che io lì non sono stato, però attraverso la tecnologia hai la possibilità di conoscere il territorio molto molto bene, allora ti puoi anche un po' sbizzarrire. Del resto, come tutte le cose, quando sai le regole le devi tenere presente, ma tante volte le puoi disattendere. Infatti Salgari ha scritto quello che ha scritto, ma è sempre rimasto a casa sua. Le tigri non hanno mai andato da nessuna parte. Eppure no. No. Biblioteca. La sua fantasia era. Giusto, giusto. Bene, sono le 7, quindi diciamo non volevamo intrattenervi troppo a lungo. L'ambiente è stato molto bello, molto familiare. Se ci sono ancora interventi, ancora domande, altrimenti chiudiamo qui il nostro incontro, ringraziando ancora della vostra presenza, della vostra attenzione, dei vostri interventi. Grazie, vi ringrazio tanto e vorrei anche ringraziare Gilberto Bonani, giornalista, mi ha accompagnato in diverse presentazioni, perciò anche questa sera, nonostante la voce ti ho portato a Bolzano grazie davvero, grazie a voi sincero veramente della vostra presenza, è stata una delle più belle presentazioni che ho fatto, quindi grazie davvero e buone cose.